l'altra Europa. Buongiorno da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro viaggio settimanale a raccontarvi questa Europa sempre più presente nel nostro quotidiano. Insomma, basta sfogliare i giornali e si vede quanta Europa ormai c'è nella nostra vita, non solo l'Europa politica, non solo l'Europa economica, che tante preoccupazioni anche ci dà. Noi cerchiamo di raccontarvi anche un'altra Europa fatta di storie, di persone, di sfumature, di altre notizie che ci piace trovare e offrirvi. È un programma in collaborazione con Euronet, www.euronet.eu, per conoscere questo network di radio europee, un programma anche che potete interfacciare in rete attraverso il nostro sito radio24.it oppure attraverso il nostro profilo in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, dove in diretta indichiamo anche tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a trattare. E a proposito di Facebook, partiamo proprio da lì per raccontarvi il Parlamento europeo. Credo di aver avuto una buona idea. Cazzo, mi piace, è veramente figo. La gente vuole andare su internet e curiosare sugli amici, allora facciamo un sito che dia a tutti quello che vogliono. Prendere l'intera esperienza sociale del college e metterla in rete. Il sito ebbe 2.200 contatti in sole 2 ore. 22.000. Quello che ha fatto di Facebook. Le nostre gruppi. Sono Sean Parker. Sean Parker ha fondato Napster. Molto piacere. $1 milione non è fico. Sai cos'è fico? Tu? $1 miliardo. Non sappiamo cosa può essere, non sappiamo cosa diventerà, sappiamo solo che è fico. $1 milione! È fatta. Perché non vogliono te, vogliono la tua idea. Non vogliono te, vogliono la tua idea. Questo è il trailer di The Social Network, film che in queste settimane, insomma, ha riscosso tantissimo successo e parla di Facebook. E abbiamo scoperto che il Parlamento europeo ha una propria pagina in Facebook. E attenzione, perché è l'istituzione più seguita al mondo dopo la Casa Bianca, con oltre 90.000 fan. Uno strumento che non è solo una vetrina, ma è proprio una finestra aperta verso il Parlamento europeo, perché si può conoscere, perché si può scoprire, ma soprattutto si può interagire. E dietro, tra i coordinatori del progetto, c'è un'italiana, è un funzionario del Parlamento europeo, web editor e coordinatrice della pagina Facebook del Parlamento europeo. Diamo il benvenuto a Raffaella De Marte. Ciao Raffaella. Grazie Federico, buongiorno. Allora, questi parlamentari europei sanno usare Facebook? Sembra di sì, perché insomma abbiamo verificato la loro presenza online e quasi tutti hanno un blog, hanno un sito, e più della metà di loro ha una pagina Facebook o un profilo, e addirittura oltre un terzo sono su Twitter, per cui diciamo sembrano abbastanza evoluti. Poi come lo sanno usare, su questo non saprei dirti, però hanno una presenza e direi che lo utilizzano per cercare di essere vicini ai cittadini che l'hanno eletto, o quantomeno di fare capire che cosa fanno a Bruxelles, perché la difficoltà dei parlamentari è quella di spiegare il loro lavoro a un elettorato che spesso e volentieri è lontano, per certo. Cui i social media accorciano le distanze. Insomma, la distanza con la politica, con i politici, è uno dei problemi reali, no? Anche più percepiti dai cittadini. Se poi si pensa al Parlamento europeo, forse questa lontananza viene ancora più estremizzata, perché sembra un'istituzione là, intoccabile, lontanissima. Sì. Facebook invece diventa proprio uno strumento di contatto. Da dove è nata l'idea, appunto, di utilizzare questo social network per fare politica europea? Ma guarda, l'idea è nata, come spesso le idee creative, durante le campagne elettorali, perché c'era una specie di panico da tasso di astensione rispetto alle elezioni europee del 2009, che ha generato un atteggiamento del tipo facciamo tutto il possibile per avvicinarci e per parlare ai cittadini. E in questo contesto noi, come unità web del Parlamento europeo, abbiamo avuto il mandato dagli organi politici della nostra istituzione di aprirci, diciamo, a questo mondo dei social media, e lì abbiamo aperto Facebook, ma anche MySpace, Flickr, Twitter, tutte le piattaforme, diciamo, di interazione, perché volevamo dare l'idea di una comunicazione che non fosse verticale, ma in cui anche i cittadini potessero fare delle domande, dire la loro, confrontarsi fra loro, anche a livello non solo, insomma, fra cittadini italiani e italiani, ma anche fra cittadini di diversi paesi. E poi dopo le elezioni non sapevamo che fine avrebbero fatto, invece le nostre, diciamo, autorità ci hanno dato Via libera per proseguire e cercare di raccontare il Parlamento anche in un altro modo, che non fosse solo quello istituzionale un po' ingessato della comunicazione via altri canali o via la stampa. 90.000 fan sono tanti, chi sono? Quali sono le nazioni più gettonate, più affezionate e soprattutto cosa cercano e cosa trovano in questo spazio, in questa pagina? Allora, guarda, con un pizzico di orgoglio da italiana ti dico che la prima nazione rappresentata per numero di fan è l'Italia, che ha adesso credo sui 12-13 mila fan dei 90 mila. Non sono i più attivi dal punto di vista dell'interazione, ho notato, però credo che perché il profilo è in inglese, per cui chiaramente per poter scrivere, dire la propria, bisogna esprimersi in inglese, per cui voglio credere che i fan italiani ci leggono tanto ma non sono i più attivi nella partecipazione, però insomma sono abbastanza fiera. Poi fra l'altro anche i parlamentari italiani sono quelli che hanno più fan di tutti gli altri colleghi stranieri, per cui Facebook è proprio un mezzo che si confà all'Italia. E che gli altri sono greci, spagnoli, francesi, insomma da tutta Europa. E la cosa più interessante credo di questa pagina è che cerchiamo di porre gli argomenti in un modo appunto colloquiale, informale, scherzoso, non troppo serioso, e nello stesso tempo di aprire al dialogo, cioè non mettiamo mai il comunicato stampa così com'è trasferito su Facebook, ma cerchiamo di dargli un angolo oppure di aprire una domanda, di fare un quiz, di creare, non so, un'interazione. Per esempio l'altro giorno c'è stata la scienziata inglese Jane Goodall, che è la più grande esperta al mondo di scimpanzé, io sì, non lo sapevo, ecco. E abbiamo dato l'opportunità ai fan di fare una domanda a questa persona, e chiaramente io non mi aspettavo, c'erano si è scatenato una trentina di domande per questa esperta di scimpanzé e tutti erano entusiasti di avere questa occasione, quindi cerchiamo di essere interattivi, insomma. Raffaella, diamo il link esatto per accedere alla pagina di Facebook. Allora, www.facebook.com/European Parliament, scritto in inglese. Perfetto, abbiamo già messo il link anche nella nostra pagina di Facebook dell'Altra Europa. Un'ultima domanda, ti chiedo un attimo di dimenticarti che sei funzionario europeo, ecco, perché di lì passano anche, no, i parlamentari e anche quelli italiani, perché organizzate anche delle chat. Chi è quello più, cioè, c'è qualcuno che è più impacciato e qualcuno invece che è più attivo? Hai stilato una tua piccola classifica che mai renderai pubblica se non ora? Parli degli italiani? Sì, per esempio. Ma allora, ci sono tanti che lo fanno fare i propri assistenti e per cui si sente che non c'è la verità, insomma la vita vera dietro. Poi invece ci sono quelli, per esempio mi è capitato di parlare con Sonia Alfano, sì, che diceva: io quando sono incavolata perché ho perso l'aereo lo scrivo, io sono proprio incazzata, ho perso l'aereo e non posso andare a Bruxelles. E lì lo vedi, no? Lei, ce n'è un altro attivissimo che si chiama Gianni Pittella, è il vicepresidente del Parlamento Europeo, e lì è proprio lui che sta sempre attaccato al suo BlackBerry e manda aggiornamenti in diretta, c'ha quattro profili, per cui invece molti altri, diciamo, magari un po' più anche anzianotti come età, ce l'hanno perché bisogna averlo, però lo lasciano gestire i propri assistenti. Ma tra l'altro, insomma, ho letto che state anche organizzando dei corsi per gli eurodeputati, quindi insomma siete attivi anche verso quel fronte. Grazie davvero a Raffaella, sicuramente ci ritroveremo qui in onda dall'Altra Europa, anzi se anche avrai delle primizie e ce lo vuoi anticipare, anche questa insomma è interazione con l'Europa, quindi noi siamo qua, ok? Grazie mille Federico, grazie a voi. Come ogni settimana Euronet ci propone un argomento comune che viene trattato insieme a tutte le altre radio che partecipano a questo network, è proprio una condivisione a più lingue, con più culture e con più voci di una tematica che ci piace settimanalmente tratteggiare, e tutti i dossier li potete poi ascoltare dal sito euronet.eu nelle loro lingue originali, un modo anche per assaporare, no? Assaporare le lingue, le culture europee. Questa settimana è stato scelto il tema dell'AIDS, l'AIDS l'Europa, il numero di pazienti per la prima volta dal 1999 sembra diminuito all'interno del continente, ma l'AIDS è lontano insomma dall'essere sterminato, tanti approcci diversi. Il 1° dicembre sarà la giornata mondiale contro l'AIDS, quindi ci sono anche tanti ragionamenti, tanti convegni in corso, e anche noi quindi abbiamo scelto di trattare questo tema con un approccio particolare, perché abbiamo trovato una ricerca non recentissima, ma di qualche mese fa, una ricerca che è nata proprio per raccontare un po' il viaggio del virus HIV all'interno del continente europeo. E diamo quindi il benvenuto al direttore delle malattie infettive universitarie dell'Università di Siena, il professor Andrea De Luca. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Allora, professore, intanto si può fotografare qual è la situazione attuale relativa all'AIDS in Europa? Sì, l'AIDS in Europa continua purtroppo a essere una realtà. Le ultime stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità parlano di circa 800-850.000 persone viventi con l'infezione da HIV o l'AIDS in Europa, e continuano purtroppo a esserci nuove infezioni, quindi il virus continua a circolare in Europa. La diminuzione a cui lei si riferiva si riferisce appunto soprattutto ai paesi in via di sviluppo, e per la prima volta lì c'è stato una riduzione della prevalenza, mentre purtroppo in Europa, grazie anche al fatto che grazie ai farmaci le persone sopravvivono oggi abbastanza bene, continuano ad esserci nuove infezioni, quindi il numero globale delle persone infettate continua ad aumentare. Ma questo perché manca ancora una cultura, manca una consapevolezza legata a questo virus? Sì, certamente, oggi purtroppo più che ieri, perché mentre diciamo qualche anno fa l'infezione circolava soprattutto tra persone diciamo che avevano dei comportamenti percepiti chiaramente come a rischio, per esempio tossicodipendenti in Italia che scambiavano le siringhe, eccetera. Oggi, da qualche anno, l'infezione circola soprattutto nella popolazione che ha rapporti eterosessuali non protetti, e spesso queste persone non sanno di avere l'infezione di HIV o comunque non percepiscono il proprio comportamento a rischio. Quindi certo. Questo purtroppo fa sì che ci sia una continua circolazione del virus. E certo, le campagne informative sono sicuramente ridotte rispetto a qualche anno fa, e quindi non c'è effettivamente una consapevolezza della necessità di usare protezione nei rapporti. Quindi questo fa sì che il virus continui a circolare, e ad oggi assistiamo anche nel nostro paese a un risorgere delle nuove infezioni, soprattutto tra i giovani omosessuali maschi e tra gli eterosessuali, e anche eterosessuali giovani, ma anche meno giovani. Ad esempio abbiamo una buona categoria di persone, soprattutto maschi, soprattutto al di sopra dei 50 anni, che hanno nuove infezioni da HIV. Voi avete partecipato a uno studio molto particolare, uno studio sulla mobilità del virus in Europa. Come mai questo studio e qual è stata la procedura, qual è stata la tecnica utilizzata? Cosa cercavate di fatto? Sì, di fatto abbiamo utilizzato una tecnica nuova che si avvale sia diciamo delle tecniche di biologia molecolare sia delle nuove tecniche informatiche applicate a questa scienza, che ci permettono di tracciare attraverso l'analisi del DNA dei diversi virus isolati in diversi paesi europei quelle che sono le relazioni tra i virus e i movimenti. È una sorta di test del DNA che somiglia molto al test che si fa oggi in criminologia, tanto per intenderci, per trovare i colpevoli, sì, no, di un determinato crimine. Di fatto si usano delle associazioni genetiche, e questo ha fatto in modo che questo ci ha permesso di tracciare le relazioni tra i diversi virus europei. E ad esempio una cosa che è emersa chiaramente è che i virus presenti in Italia sono molto correlati, e quindi hanno a che fare con delle migrazioni, sono cioè degli scambi, diciamo, non proprio migrazioni, con virus che sono presenti negli altri grossi paesi del Mediterraneo, come la Grecia, come la Spagna, e i paesi confinanti, come la Svizzera e come l'Austria. Questo fa vedere come chiaramente il virus entra in un paese attraverso diverse fonti e poi si diffonde nell'ambito del paese attraverso altri passaggi. Quindi c'è una sorta di import ed export, adesso per banalizzare, anche del virus, e tra le varie nazioni. Voi avete lavorato su un campione di 17 paesi europei e avete trovato appunto relazioni dirette tra una nazione e l'altra. C'è qualcosa di significativo? Sì, come può fare qualche esempio? Ho fatto l'esempio dell'Italia con questi paesi confinanti, e noi siamo uno di quei paesi che sia importa sia esporta il virus. Ci sono altri paesi che sono prevalentemente importatori, come per esempio il Belgio, come il Lussemburgo, e ci sono paesi prevalentemente, e come anche il Portogallo, sono paesi invece prevalentemente esportatori, ma insomma come Israele, ma prevalentemente si tratta, i paesi sono prevalentemente sia importatori che esportatori del virus. Ma in Europa c'è un paese che è meno colpito degli altri, e in una misura sì, significativa? Beh, ci sono paesi meno colpiti sicuramente, per esempio paesi scandinavi, i paesi dell'est europeo sono ancora poco colpiti, con alcune eccezioni come i paesi attorno al Mar Baltico, insomma dell'area baltica. Paesi più colpiti siamo noi, purtroppo, assieme alla Francia, alla Spagna e al Portogallo. Gli altri, la Svizzera in parte, gli altri paesi sono meno colpiti rispetto al nostro. E dai vostri studi questo è accaduto perché c'è stata maggiore prevenzione nei paesi nordici, per esempio? Ma questo, a prescindere dal nostro studio, sì, è chiaro che c'è stata una maggiore attenzione e prevenzione. La situazione nel nostro paese è un po' particolare, perché storicamente nel nostro paese il virus è entrato molto precocemente negli anni 70-80 e soprattutto si è diffuso a macchia d'olio tra i pazienti tossicodipendenti all'epoca, e da questi pazienti poi attraverso i rapporti eterosessuali è passato alle altre categorie. Quindi in parte questo ha a che fare, diciamo, con un vecchio danno, è una vecchia cicatrice che non ci portiamo appresso, e in parte purtroppo continua ad alimentarsi, come dicevo prima, per la scarsa consapevolezza della necessità di proteggere i rapporti eterosessuali, soprattutto quando promiscui. Grazie davvero, professor De Luca, insomma, per averci aiutato a fotografare la situazione, e in bocca al lupo per il suo lavoro. Andrea De Luca, direttore delle malattie infettive universitarie dell'Università di Siena. Buon sabato e grazie. Grazie a voi, arrivederci agli ascoltatori. Europost-it. Traduzioni in festa. Si sta svolgendo a Napoli Tradurre in Europa, il Festival della Traduzione. Una settimana di eventi letterari, di danza, canti, musica, incontri, slam poetry e letture che si chiuderà lunedì 29. Una manifestazione per scoprire i 1000 volti della traduzione che, mai come oggi, è una risorsa importante per creare dialogo tra culture e popoli diversi. Per informazioni, estranslation.net. E abbiamo scelto questa musica macedone per celebrare anche noi, a nostro modo, i 10 anni dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Vi do subito l'indirizzo del sito internet balcanicaucaso.org, trovate comunque il link nelle nostre pagine in Facebook. Un progetto della Fondazione Opera Campana dei Caduti, è un media elettronico ma è anche un centro studi, ed è proprio una sorta di analisi continua, quotidiana, che viene fatta sulle politiche sociali non solo del sud-est dell'Europa, Turchia e Caucaso, insomma tutta quella zona dell'Europa che a volte è dimenticata perché è molto ai confini. 10 anni di questo osservatorio che viene festeggiato oggi a Rovereto, per capire quello che fanno e come lavorano abbiamo invitato un corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. È in Albania, voleva essere anche lei qui a Rovereto alla festa, ma credo non abbia ottenuto il visto. Diamole benvenuto a Mariola Rukaj. Ciao Mariola. Ciao. Ciao, buon sabato. No, non ce l'hai fatta a partire per l'Italia? No, purtroppo no. I signori del consolato hanno deciso che non dovevo partire praticamente, quindi eccomi qua. In Albania. Ma come mai, questa è prassi comune, ogni volta che devi uscire dall'Italia, dall'Albania, scusami, è una sorta di lotteria? Sì, esatto, è abbastanza, è una questione molto arbitraria, quindi dipende un po' dagli umori dei burocrati, e quindi è abbastanza difficile ottenere un visto e dipende da una serie di dettagli burocratici che sono abbastanza spesso anche contraddittori, insomma, quindi purtroppo in questa parte del mondo abbiamo ancora difficoltà e dobbiamo ancora affrontare, insomma, questo tipo di barriere. Dal punto di vista da albanese, vi sentite comunque ancora ai margini? C'è attenzione su quello che accade lì o non ce n'è ancora abbastanza, o non ce n'è per niente, secondo te? Per quanto mi riguarda, l'osservatorio riesce a colmare questo, questo vuoto di interesse, questa mancanza di interesse in Italia. C'è da dire che sì, è una cosa abbastanza palpabile, poiché io faccio anche la freelance e la giornalista freelance ogni volta, ad esempio, che propongo articoli sull'Albania, non, per la maggior parte dei casi non interessa, perché appunto nonostante sia un paese così vicino e così legato all'Italia, spesso si dice vabbè, ma è un paese molto piccolo, non succede mai niente, non è più in tempi di crisi come una volta, e quindi invece bisogna appunto informare, perché l'Albania è cambiata, insomma i Balcani sono cambiati, e bisogna anche aggiornare, insomma, queste informazioni che assolutamente sono rimaste un po' assolutamente indietro. Mentre lì, adesso mi sto focalizzando sull'Albania, sfrutto la tua presenza, che percezione si ha dell'Europa? Ma l'Europa è molto presente, gli albanesi sono acriticamente eurofili, nel senso in tutti i sondaggi che vengono svolti molto spesso, quasi annualmente, quasi il 95% degli albanesi affermano di voler integrarsi nell'Unione Europea e di sentirsi, anche se particolari, ma pur sempre europei, quindi viene percepita come una cosa molto, molto intrinseca al futuro dell'Albania, solo che appunto rimane molto, molto lontano come futuro, appunto, e ovviamente i rapporti come ho appena accennato, insomma, con il mio caso e l'integrazione dei visti, appunto la liberalizzazione dei visti, su questo punto di vista si sta un po' indietro, certo, rispetto agli altri cittadini, però è comunque un tipo di frustrazione che nel giro di un paio di settimane finirà, perché anche all'Albania verranno liberalizzati i visti. Ok, quindi sei solo eri un po' in anticipo rispetto alla festa, dai, mettiamola così. Esatto. Mariola, grazie davvero. Allora, ricordiamo balcanicaucaso.org, il link dell'osservatorio, trovate comunque questo link e questo indirizzo anche sulle nostre pagine in Facebook. Mariola, che dire, a noi interessa molto quello che accade in Albania e dintorni, quindi ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa, va bene? Grazie. Ciao, buon sabato, grazie a te, ciao ciao. Grazie altrettanto, grazie. Europostit. Il Louvre batte cassa. Il più famoso museo parigino vuole aggiungere alla sua collezione Le Tre Grazie, un quadro dipinto da Lucas Cranach nel 1531. Ma i 2 milioni di euro dei quali si dispone non sono sufficienti, e così ha pensato di trovare il milione mancante rivolgendosi direttamente al pubblico, chiedendo di partecipare a questa operazione con delle donazioni online. Tutte le informazioni sul sito ufficiale del museo louvre.fr. Questi sono i nostri Europost-it che troverete tutti sul nostro sito radio24.it o sulle pagine in Facebook. Vi ricordo anche che potete farvi vivi via mail, l'indirizzo è l'altraeuropa@radio24.it. Se avete da segnalarci iniziative, storie, eventi appunto a livello europeo. Raccontiamo una storia, come amiamo fare qui all'Altra Europa, rubiamo in parte il lavoro al gastronauta Davide Paolini, che arriverà dopo di noi, e sì, viaggiamo anche noi seguendo la cucina, un viaggio europeo. Una volta tanto non parliamo di cervelli in fuga, ma forse di fornelli in fuga, anche se la sua è una storia particolare, perché è da tantissimi anni che è all'estero. Si chiama Christian Puglisi, è messinese ed è stato inserito tra i dieci giovani chef più bravi d'Europa, quindi volevamo conoscere lui e la sua storia. Ciao Christian e benvenuto all'Altra Europa. Ciao. Ciao. Ho detto tutto bene, vero? Sì, giusto, perfetto. Quanti anni hai? 28. E tu vivi in Danimarca da tanti anni ormai? Sì, ormai 20 anni che siamo qui. Ok, quindi ti senti un fornello in fuga o no? Cioè, nel senso la tua... Diciamo che siamo stati in fuga prima che io ho visto i fornelli, se dico così, ma non so, io per me questa è la vita, che me la vivo qui a Copenaghen. Tu a Copenaghen hai il tuo hai aperto un ristorante italiano? Sì, no, tutti mi chiedono, specialmente all'inizio, prima di aprire, che tipo di ristorante vuoi fare, italiano, danese, francese. Però non è basato su un tema geografico, diciamo così. È una cucina personale che usa prodotti locali, però anche con certi elementi del sud, come olio d'oliva, limoni e così via. Ecco, ma ammetto e confesso di non conoscere per nulla la cucina danese. Cioè, si mangia bene in Danimarca? Si mangia meglio adesso che come si mangiava qualche anno fa. C'è stata una ondata di gastronomia nuova, diciamo, con la cucina nordica, sì. Soprattutto con Noma, che è votato miglior ristorante del mondo, che è basato qui a Copenaghen. Sì. È praticamente una cucina che si basa sui prodotti locali, e così c'è stato un grandissimo sviluppo negli ultimi anni. Come si vede si vedeva in Spagna 10 anni fa, che la gastronomia ha fatto un grandissimo salto di qualità, e anche quella era una cucina magari che non era troppo collegata alle tradizioni. Anche qui in Danimarca, con poca tradizione per la gastronomia, c'è stata la possibilità di fare tantissimo. Ho capito. E tu come hai fatto a entrare nel gota dei giovani chef? Qual è la tua caratteristica principale? Cosa piace di te? Non lo so. Onestamente, il ristorante è molto nuovo e sono stato molto onorato di questo riconoscimento, però penso che anche vuol dire tantissimo essere in un posto che adesso attira tantissima gente, che si interessa tanto alla gastronomia, perché qui a Copenaghen c'è tanta gente che viene dall'estero per mangiare da Noma e trovano l'opportunità di venire anche da noi. Così abbiamo avuto un po' di fortuna a essere conosciuti da tantissima gente in pochissimo tempo. Mm-hmm. E quello che piace è che devi chiedere agli altri. Ma secondo me qualche sospetto ce l'hai anche tu, dai. No, ma cerchiamo di fare una cucina ambiziosa, gastronomica, però in un ambiente molto più rilassato. Questo non è un ristorante di lusso, questo è un ristorante molto semplice, con poco spazio e tanta gente, però con la cucina che cerca di spostarsi, che non è tradizionale, che cerca di dare un'esperienza interessante alla gente. Ecco, leggevo un'intervista però che tra gli agrumi siciliani e il salmone scandinavo continui a scegliere gli agrumi siciliani. Sì, per me, essendo... sono stato sous chef a Noma per 2 anni e mezzo e lì c'è il dogma di non usare prodotti che non sono della regione nordica. No? Okay. Allora io... essendo cresciuto con olio d'oliva, pomodoro e così via, finalmente è stata una grande liberazione poterli usare di nuovo questi prodotti. Allora sono andato un po' alla riscoperta dei prodotti del sud. Cristian, come si chiama il tuo ristorante? Relais. Perfetto. Grazie davvero, in bocca al lupo per la tua attività, allora. Salutaci la Danimarca. Ciao, buon appetito. Grazie, lo so, ne sono consapevole, manca poco meno di un mese a Natale, ma ormai è anche da un mese che si vedono gli alberi di Natale, quindi mi sento assolutamente autorizzato a parlare di Babbo Natale oggi. E questa cosa voglio fare qui in Europa, precisamente in Svizzera, a Samnon, che è una località sciistica dove, attenzione, proprio in questi minuti sta per iniziare la 10ª edizione, il 10º anno del campionato mondiale di Babbi Natale. Sì, sono oltre 100 Babbi Natale in gara per, insomma, è un ambito premio, perché pare che sono 10.000 franchi in palio. Va bene, questa è più che una consolazione, è comunque un titolo importante, perché cioè, sei il numero uno, sei il primo Babbo Natale al mondo, scusate se è poco. Anche questa è l'altra Europa, e per capire quello che sta accadendo in queste ore, quello che accadrà in questi 2 giorni, abbiamo invitato uno degli organizzatori del campionato mondiale dei Babbi Natale. Diamo il benvenuto ad Hans-Peter Engelhardt. Ciao Hans-Peter. Ciao Federico, buongiorno Italia. Grazie. Allora, sei un Babbo Natale anche tu? Un po' sì, un po' siamo tutti Babbi Natale, ma soprattutto abbiamo le squadre che fanno il campionato. Io sono vestito normale, diciamo. Ok, sei un borghese. Ma, ma da dove nasce questa idea? Ormai insomma il decimo anno, quindi vuol dire che funziona e ha anche già una storia. Sì, ha una storia. Soprattutto per inaugurare la stagione invernale qua in nostra area ampia di ski tra l'Austria e Svizzera. Sì. Qua a Zamnaun ci troviamo in Austria, in Svizzera, scusa. Certo, e quindi insomma quindi avete avuto quest'idea, idea che è piaciuta, perché insomma oltre 100... Sono oltre 100 Babbi Natale in gara, giusto? Da tutto il mondo, da tutta Europa, da dove arrivano? Da tutto il mondo, e quest'anno abbiamo una squadra molto particolare, viene da Giappone, e hanno anche la stazione TV con 15 persone che fanno anche una produzione per il TV più, per la Rai 1, diciamo, di Giappone. Ci credo, insomma, il campionato del mondo del Babbo Natale, scusa, ma ha un suo perché. E come funziona? Cosa accade in questi due giorni? Quali sono le gare? Sì, le gare. Allora, cominciamo proprio tra un'oretta, alle mezzogiorno e mezza, e si incontrano tutte le squadre alle 12. Sì. E poi comincia la prima disciplina, si chiama Zipfelbob, e se scende una pista deve scendere tutti quattro partecipanti della squadra tutti insieme giù, e sì, per forza misuriamo anche l'orario. Ok, quindi insomma una sorta di gara con i bob, poi sì, un paio di prove significative per capire appunto il senso della festa, della gara, del campionato. Certo, allora abbiamo i cavalli, sempre attaccato a Natale, diciamo, abbiamo scelto le discipline, i cavalli devono cercare presenti mentre vanno in cavallo. Sì. Poi abbiamo come finale lo spettacolo più grande alle 10 stanotte, karaoke. perché Babbo Natale deve saper cantare, giustamente. Giustamente, loro possono scegliere o potevano scegliere dei canzoni che si tratta di Natale, perciò per forza devono cantare. Ma c'è anche la gara con le renne? Con le renne, adesso non so come si possa dire renna in tedesco. Non ho capito. L'animale, dici? Sì, l'animale classico che traina la slitta. Purtroppo no. Okay. Questo magari si trova in Finlandia. Esatto, però quella, insomma, il campionato del mondo è il vostro, quindi le altre sono semplici imitazioni. Ma il campione in carica di che nazionalità è? Adesso in carica è Svizzera, una squadra svizzera che anche sarà la prima squadra oggi, che deve, sì, ieri abbiamo fatto la presentazione di tutte le squadre, e sono già arrivati ieri 22 squadre di 25, tra 25. Ok, ma ci sono anche gli italiani? Purtroppo no, purtroppo quest'anno non siamo riusciti di invitare o di attraere degli italiani, e speriamo veramente attraiere degli italiani, sì, per il prossimo anno. Per il prossimo anno, insomma, anche cercheremo, sì, di fare promozione, insomma, se ci sono aspiranti Babbi Natale, sì, in giro, lì c'è la gara. Vuoi darci il sito internet per tutte le informazioni e dove si possono vedere anche le foto delle passate edizioni? E in effetti c'è molto da ridere, certo, sicuramente. Dici? Sarebbe www.samnaun.ch. Inoltre abbiamo un altro sito, si chiama www.clauwau.com, E lì si trova anche tutte le informazioni in inglese. Perfetto, abbiamo messo in diretta il link anche sulle nostre pagine in Facebook, facebook.com/l'altreuropa, così potete assistere quasi in diretta a quello che sta accadendo al campionato mondiale di Babbi Natale. Grazie davvero Hans Peter e in bocca al lupo, buon divertimento. Grazie mille, ciao. Grazie mille Italia, grazie mille Federico. Ciao. E insomma, con Babbo Natale chiudiamo la puntata di oggi. Un grazie a tutti quelli che hanno dato una mano a preparare la puntata, ad Alba Rondelli, a Margherita Ina, a Giorgio De Luca oggi qui in assistenza, a Peter Bescapè invece alla parte tecnica. l'altreeuropa@radio24.it per scriverci, per contattare la nostra redazione. radio24.it è il nostro sito da dove potete riascoltare e scaricarvi tutte le puntate dell'Altra Europa. Noi ci ritroviamo qua sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia. We'll be right back.